Ma dice la canzon la nasa Napoli, e certa menga minga tutti tor, surriento margellina tutti popoli, l'avran cantal menù un milion de vol, misteri che supenderà nisù, se parlo un cicinì, anca de nù. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adore piscinina, ti te domine Milan. Sota ti se viv la vita, se sta mai cui man in man, canten tu c' lontan de Napoli se ne, ma per venien chi a Milan. Adesghe la canzone de Roma magica, de Nino il cupolone rugantin, se sbattin del Tever, roba tragica, esagere me par un cicinin. Sperem che beniaminga la mania, de metes a cantà, malano mia. Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan, tu t'adora e piscinina, ti te domine Milan. Sota fisse viv la vita, se stanai con man in man, canten tu lontan de Napoli se ne, ma pe venien chi a Milan. Mia bella Madonnina, che te brille di lontano, tu t'adora e vicinina, ti te domine Milano. Se veni senza paura, non ve stringerem la mano, tutto il mondo alle paese sem d'accordo,